Così è. Sospirerà dolcemente, scotendo le mani giunte. Ci vuol pazienza. Quella poverina deve figurare di non esser lei, ma un'altra. E io d'esser pazza, signore mie. Ma come si fa? Purché stia tranquillo lui. Non si incomodino, prego, so la via. Riverisco, signori, riverisco. Salutando e inchinandosi, si ritirerà in fretta per l'uscio comune. Resteranno tutti in piedi, sbalorditi, come basiti, a guardarsi negli occhi. Silenzio. Luigi Pirandello.